Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati al vostro appuntamento con la grande attualità internazionale. Giampaolo Musumeci è al microfono, in redazione sono Margherita Aina, Emanuele Brignoli, Gianni Rosini, che hanno confezionato con me questa puntata. Tanti temi, lo avete sentito anche dall'anticipazione. Intanto il mistero sulla morte del Mullah Omar, perché finché non vi saranno ulteriori conferme, per il momento sono fonti afghane riprese da una TV, ma per il momento, fra l'altro, si attende anche una dichiarazione proprio da parte dei talebani. Poi andremo in Tunisia, perché l'approvazione della nuova legge contro i terroristi sta facendo discutere soprattutto le organizzazioni in difesa dei diritti umani. E poi tanti temi, dicevo. Parleremo anche, collegato alla situazione in Tunisia, dei cosiddetti foreign fighters, cioè i combattenti stranieri, con un inquadramento giuridico, un tema che molto poco viene toccato dai nostri media, ma che invece merita la nostra attenzione. Allora, ricchissima questa pagina, però partiamo dal mistero, il mistero del Mullah Omar. Afghan government and security sources say the fugitive leader of the Taliban, Mullah Omar, is dead. E allora, prima di dire che è morto, insomma, dobbiamo capire se la notizia verrà confermata. Ci soccorrerà nel gettare luce su queste tante zone d'ombra di questa notizia, è la notizia del giorno, Giuliano Battiston, analista e giornalista freelance, esperto di cose afghane. L'abbiamo già sentito, ma al volissimo, alle 13 per l'anticipazione. Giuliano, ben ritrovato Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, intanto mi sembra che dal punto di vista delle notizie conferme in più non ce ne siano, né dichiarazioni nemmeno da parte dei talebani, mi confermi anche tu? Sì, i talebani per ora hanno spento i telefoni, chiusi gli account, sembrano non dare segno di vita, forse stanno ragionando su quale sia la strategia comunicativa e mediatica migliore per uscire da questa situazione, che imbarazza ovviamente anche loro. Certo. Già Luna ci avevi detto che notizie di questo tipo vanno prese assolutamente con le pinze e con le molle. Che lettura dai? Normalmente la domanda da farsi è a chi giova una notizia così, ma forse, come giustamente suggerivi tu, a chi non giova, cioè a chi nuoce una notizia come questa? Beh, per ora la premessa è che il Mullah Omar, vivo o morto che sia, ha sempre fatto da garante, ha tenuto insieme un gruppo molto eterogeneo di forze talebane, di gruppi che soffrono spinte centrifughe da molto tempo, e quindi la sua presenza, la sua eredità in qualche modo ha tenuto insieme tutte queste diverse anime. Il fatto che sia stata annunciata la sua morte mette a rischio il processo di pace, che per la prima volta negli scorsi mesi ha fatto qualche passo in avanti. Quindi chi ci rimette sono i gruppi all'interno della galassia talebana, che erano inclini al negoziato politico con il governo di Kabul e con le forze straniere, e invece giova a tutti quanti coloro che, sia all'interno della galassia talebana sia all'esterno, mi riferisco al fronte regionale, al più ampio fronte regionale, invece erano e continuano ad essere riluttanti a risolvere la questione afghana attraverso i mezzi diplomatici. E quindi in parte hai risposto alla mia seconda domanda, che era quanto il timing, cioè quanto la tempistica di questa diffusione della notizia sia sospetta, in parte lo hai già detto. E poi c'è da dire che comunque la vita del leader spirituale dei talebani, del Mullah Omar, è sempre stata circondata da grande privacy, pochissime le immagini. Ricordo un video rubato dalla BBC, ma parlo di più di 10 anni fa, sempre in grande segretezza, no? la sua attività. Quindi forse ci sta tra le pieghe, come dire, sta nei contorni, sta nell'alveo della sua storia anche il mistero che aleggia sulla sua morte. L'evanescenza, il carattere un po' fantasmatico del Mullah Omar in qualche modo ha giovato, ha reso la sua figura ancora più carismatica, perché è un leader che non appare e che tuttavia è autoritario proprio nella sua evanescenza, in qualche modo contribuisce a creare un mito. Allora, il fatto di cui si parla è che Mullah Omar potrebbe essere stato ucciso, potrebbe essere scomparso già diversi anni fa. La vera domanda da farsi è perché i talebani non abbiano dichiarato la sua morte, ovviamente proprio per tenere vivo il mito che tiene coeso un movimento molto ampio. Io già nel dicembre scorso, nel corso delle mie ricerche in Afghanistan, avevo raccolto diverse informazioni che però mi confermavano la sua fine politica, se non appunto la sua morte fisica, come leader dei talebani. Già allora diverse fonti afghane mi avevano detto che erano in corso alcuni incontri preliminari tra le tre sì, principali sciure dei talebani per decidere con quali criteri selezionare il nuovo leader. Fra l'altro stanno arrivando messaggi al 349-238-6666 di alcuni ascoltatori. Fra i tanti c'è Gianni da Verona che dice: anche se è morto lui, ve ne sono mille pronti a sostituirlo, più sanguinari di lui. Sei d'accordo, Battiston? È così facilmente sostituibile, tra virgolette, una figura come il Mullah Omar? Beh, non così facilmente. In queste ore sembra che le discussioni in seno al gruppo dei talebani siano riprese, che ci siano diverse ipotesi in corso su chi possa sostituirlo, cioè Mullah Mansur, un suo diciamo braccio destro, oppure altri mullah molto vicini a lui. Il vero pericolo, secondo me, è che appunto questa notizia in qualche modo ostacoli il processo di pace, frammenti ulteriormente il corpus dei talebani e in qualche modo sta allontanare dalla leadership politica tutti quei comandanti militari che non sono per niente d'accordo sulla linea del negoziato politico. Vari gruppi scissionisti dei talebani potrebbero dunque allontanarsi di più dal tavolo dei negoziati e decidere di unirsi ad altri gruppi, incluso lo Stato Islamico, che in Afghanistan negli ultimi mesi sta cercando di entrare con i piedi di piombo. Certo, e questo è un fattore non di poco conto, ma noi ci torneremo in queste settimane di Nessun Luogo Lontano. Intanto grazie mille, Giuliano Battiston, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E questa era la prima pagina di Nessun Luogo Lontano di quest'oggi. Siamo andati in Afghanistan e adesso invece vi riporto in Europa, in un imbuto, in un vicolo cieco, un cul-de-sac per le rotte dei migranti. È il porto di Calais. Perché? Perché la cronaca ci ha restituito questa notte un assalto da parte di circa 2000 migranti all'Eurotunnel, quindi al tunnel sotto la Manica, e un ragazzo sudanese è morto investito da un camion. Questo evento di cronaca riaccende i riflettori su una situazione sulla piccola città di fronte a Dover, così vicina all'Inghilterra, meta per tanti migranti, che si è andata deteriorando negli ultimi mesi, guarda caso dopo i tanti arrivi nel sud dell'Italia. E quindi adesso cercherò di raccontarvi la situazione di Calais. 11 o'clock by the big light. Captured on an infrared night vision camera, this footage shows migrants making a dash for the perimeter fence of the Channel Tunnel in France. Sorry, police cars on the other side here. As soon as night falls, this area comes alive. The port used to be the main target, now security. E l'attenzione dei media, anche e soprattutto inglesi, è tutta sul piccolo porto di Calais ormai da settimane. Quella che viene chiamata la nuova giungla, che io visitai nel lontano 2009, fu poi abbattuta dalle autorità francesi, si è ricostituita in un posto diverso, siamo più vicini all'ingresso appunto dell'Eurotunnel, ma la sostanza, la dinamica è sempre la medesima. Migranti diretti appunto in Inghilterra che stazionano nei dintorni o del porto per infilarsi nel camion o nei dintorni appunto dell'Eurotunnel per tentare sempre il passaggio. La situazione che si è andata a creare è una situazione paradossale, per cui non vi è assistenza sufficiente per questi migranti, ma abbiamo chiesto una fotografia in tempo reale a Tom Davis, che è un geografo dell'Università di Birmingham che sta svolgendo ricerche sul campo proprio riguardo alla situazione di Calais. È lui che ce la fotografa. The situation in Calais at the moment is bad and it's getting worse. I was there originally. E Tom Davis ci dice che la situazione al momento è molto brutta e sta peggiorando. Racconta di essere arrivato a Calais ad aprile, quando il nuovo campo stava nascendo. Le autorità, dice, hanno ripulito l'intera area intorno alla città e hanno costruito un unico grande campo a est, in un'area destinata a ospitare una discarica. ricorda che quando era arrivato ad aprile il geografo c'erano 1500 persone. Oggi si stima che nello stesso campo ci siano tra le 3000 e le 4000 persone, ma per la fine dell'estate, ed è questo motivo di allarme, il numero di migranti potrebbe arrivare fino a 5000, tutti in condizioni pessime. Allora, uno dei campi su cui sta lavorando Tom Davis, questo geografo dell'Università di Birmingham, che fra l'altro si diletta anche molto bene di fotografia, per cui sul suo account Twitter potete seguire la sua attività su Calais, è la situazione sanitaria. Un così grande numero di persone racchiuse in uno spazio relativamente piccolo porta inevitabilmente a delle conseguenze sanitarie e sociali. Ascoltiamolo. Well, the public health situation is something that myself and my colleagues at the University of Birmingham. La situazione sanitaria, ricorda Tom Davis, è l'aspetto sul quale io e i miei colleghi dell'Università di Birmingham stiamo facendo la ricerca. Il primo studio è stato fatto attraverso i sondaggi tra i microcampi presenti all'interno della struttura e ci ha detto che le persone vivono in gruppi di circa 20 individui in uno stato di segregazione, non si integrano con le altre realtà del campo e si trovano in condizioni pessime. Non c'è una copertura igienica che garantisca un'accettabile condizione sanitaria, non vi è cibo pulito, non c'è persino possibilità di lavarsi le mani. Questo naturalmente, racconta Davis, aumenta le possibilità di diffusione di malattie all'interno di questa struttura, chiamiamola struttura. Abbiamo parlato con molti di loro, racconta sempre Davis, che ci hanno detto vi sono file alle docce che durano un giorno intero perché la struttura offre servizi igienici sufficienti solo per 400 persone al giorno, ma nel campo ve ne sono 3 o 4000. E poi hanno svolto, racconta sempre Tom Davis, dei test su alcuni campioni d'acqua che l'università sta analizzando e rispetto ai quali avremo risposte molto presto. Tra l'altro, la situazione che racconta Tom Davis è una situazione che si è creata negli anni, sono ormai 10-15 anni che Calais vive questo fenomeno. È un fenomeno ormai strutturale perché a ondate, e dipende dalle ondate che arrivano poi nel sud dell'Europa, in particolare sul territorio italiano, a ondate gli stessi migranti si riversano prima in Francia e poi cercano di arrivare in Inghilterra. La politica della polizia francese è stata negli anni piuttosto dura, nel senso che si è sempre cercato di disperdere o distruggere i campi che sorgevano spontaneamente. E in realtà più di 10 anni fa vi era un centro di accoglienza ben strutturato e gestito dalla Croce Rossa, ma che poi fu chiuso perché alcuni partiti politici e una parte della società civile francese sosteneva che era proprio il campo, il centro d'accoglienza, che andava ad attirare i migranti, cosa che puntualmente è stata smentita dalla storia, perché continuamente Calais, per sua natura, essendo di fronte all'Inghilterra, è un punto di approdo e poi di ripartenza appunto nel viaggio migratorio. Però andiamo a vedere, sempre grazie a Tom Davis, dove è situato esattamente questo campo di Calais. No, it's actually been, I think, deliberately placed on the other side of the tunnel entrance. Allora, è dall'altra parte rispetto all'entrata del tunnel. Il vecchio campo nel 2002 era collocato a ovest di Calais. La posizione di questo nuovo campo è frutto di un accordo tra Francia e Gran Bretagna e si trova a qualche chilometro a est, vicino all'attracco dei traghetti e vicino a una fabbrica di prodotti chimici e un'autostrada. Così i migranti ogni notte camminano per questo tratto cercando di raggiungere il Regno Unito. Si tratta di una camminata di circa 2 ore e mezzo. La decisione delle autorità aveva come obiettivo quello di allontanare i migranti appunto dal tunnel. Ancora vi ricordo gli sms per commentare i temi che stiamo trattando di quest'oggi. Vi sto raccontando della situazione di Calais, la sto fotografando anche grazie alla testimonianza di Tom Davis, che è geografo dell'Università di Birmingham, che è lì sul posto a Calais, sta svolgendo una ricerca in particolare sull'impatto sociale e sanitario che la presenza dei migranti ha sulla piccola cittadina francese. Vi dicevo 349-238-6666 per i vostri commenti, Twitter nessunluogo24 oppure il mio personale Giampaz, la pagina è nessunluogolontano-radio24. Beh, la situazione di Calais che cosa ci dice? Innanzitutto che Il problema è comune, non è semplicemente Lampedusa, non è semplicemente Pozzallo, non è la Grecia, l'isola di Lesbos. Recentemente esiste una mancata gestione da parte delle autorità europee riguardo all'immigrazione, tanto più se si va a vedere, come vi raccontavo, che la situazione di Calais perdura da anni, non è una novità. Il centro di accoglienza esisteva già nel 2003, per cui sicuramente da parte delle autorità europee esiste una miopia nell'affrontare il fenomeno e nell'urlare sempre all'emergenza, quando emergenziale non è, è un fenomeno strutturale. La struttura di questo fenomeno ce la fotografa con l'ultima testimonianza, l'ultimo scatto, sempre Tom Davis dell'Università di Birmingham. Gosh, I think the image that really has struck with me, the first image I took back in April. I got off the ferry at Calais, and the first thing I saw was a pair of trousers caught in a barbed wire fence. Beh, lui intanto alla domanda se dovessi restituirci con una sola foto la situazione di Calais è rimasto un po' esterefatto, un po' scioccato. Dice: la prima immagine di quando sono arrivato ad aprile, il mio traghetto stava attraccando e ho notato un paio di pantaloni impigliati nel filo spinato che è intorno al porto di Calais. È possibile che quei pantaloni appartenessero a qualcuno che ha provato a salire abusivamente su uno dei traghetti che porta in Gran Bretagna. È l'immagine simbolo della crisi. David Cameron, che prova simpatia per i vacanzieri che stanno tornando dalle ferie e passano da Calais, questo lo stupisce un po'. Nessuna parola per i migranti, dice il ricercatore dell'università. E non a caso il governo continua pestando duro sul governo britannico, vorrebbe stendere ancora più filo spinato e spenderà 7 milioni di sterline per rendere Calais una fortezza, evitando così che i migranti arrivino nel Regno Unito. La situazione nei campi in Europa, e Calais ne è un esempio, è quella di una crisi umanitaria sulla quale i vari governi dovrebbero posare la propria attenzione per cercare di aiutare i migranti che si trovano all'interno di queste strutture. E questo era Tom Davis, geografo dell'Università di Birmingham, che sta fotografando e sta compiendo la sua ricerca appunto a Calais. 349-238-6666 per i vostri sms, alcuni, lo immaginavo, come sempre quando si parla di immigrazione sono irripetibili, per cui vi prego di usare termini accettabili che io possa riportare in radio. Max ad esempio dice: Calais, un esempio di come gli immigrati li abbiano anche gli altri paesi europei, tutto il mondo è paese. Certo che sì, gentile Max, il problema è decisamente europeo, gli immigrati approdano nei paesi in prima linea tra virgolette come Italia e Grecia, nel passato anche in Spagna, ma poi puntano al nord Europa, ed è chiaro che la gestione è assolutamente un problema europeo, non può essere demandato ai singoli paesi. E allora, dopo questa breve pagina dedicata alla situazione a Calais, ma ci torneremo perché un po' l'immigrazione è il mio pallino, ci lavoro da tanto tempo studiando le rotte, studiando anche le reti criminali, un po' è un tema che suscita interesse e un po' è probabilmente la più grande leva politica, la più grande leva elettorale che l'Europa conosca, perché il dossier immigrazione viene molto facilmente strumentalizzato, quindi ci torneremo certamente. Vi sono altre rotte più nascoste che i migranti percorrono, vi sono altre risposte che l'Europa dovrebbe dare che noi cercheremo di mettere in luce. Ma adesso io volevo parlarvi di Tunisia. Perché nel paese nordafricano è stato 3 giorni fa approvata una nuova legge antiterrorismo, una legge che prevede, fra le altre cose, anche la pena di morte. È una legge molto dura, che è stata ampiamente criticata dalle associazioni che difendono i diritti umani, perché la paura è che vada a ledere anche alcune libertà individuali. Adesso cercheremo di capire i punti di criticità di questa legge, che prevede anche maggiore repressione attraverso internet, che prevede una carcerazione anche per il solo sospetto per un determinato numero di giorni. Intanto do il mio benvenuto e il mio buongiorno a Stefano Torelli, ricercatore per l'ISPI, esperto di Tunisia. Torelli, benvenuto a Nessun Luogo. Buongiorno, grazie. Buongiorno, la Stefano Torelli, lei sarà il mio faro in questa discussione sulla legge antiterrorismo, ma per essere fari le devo chiedere di abbassare la radio. Non ho la radio accesa. Accidente. Allora c'era un eco. Però forse Allora, forse è un ecco, sì, esattamente. Ecco, allora era un problema di cuffie. Perfetto. Rimediamo. Allora, Stefano Torelli, ricercatore all'ISPI, esperto di Tunisia. La legge è stata approvata dal Parlamento fondamentalmente all'unanimità, nel senso che vi sono state astensioni, ma nessun voto contrario. Già questo è un segnale interessante. La prima domanda che le farei, le chiedo uno slogan. Quanto è davvero efficace questa legge contro il terrorismo? È difficilissimo uno slogan. Diciamo che a mio avviso, chiaramente è una mia personale opinione, diciamo che questa legge, senza altre misure di carattere più ampio, diciamo politico, socio-economico, a mio avviso è poco efficace. E già mi sembra un ottimo punto di partenza. Perché nasce questa legge? Qual è la ratio che soggiace? Innanzitutto colpire appunto il jihadismo, il terrorismo interno, ma anche andare a colpire i cosiddetti combattenti stranieri. La Tunisia ne sforna parecchi, poi daremo i numeri. Però, se vi ricordate, non solo l'attentato al Museo del Bardo a Tunisi era il 18 marzo, non solo quella del 26 giugno sulla spiaggia di Sousse, questi ultimi avvenimenti hanno ovviamente messo sotto i riflettori il problema del terrorismo nel paese nordafricano. Il Parlamento si è riunito, ha deciso di approvare questa nuova legge. Fra l'altro, nei due giorni da lunedì in poi vi sono stati un'ondata enorme di arresti, almeno 520 da lunedì scorso, 315 persone arrestate per accuse di terrorismo, la notte scorsa almeno 24 persone. Questo per spiegare il perché il Parlamento tunisino abbia deciso di dare un giro di vite rispetto a questo fenomeno. Stefano Torelli, stia con noi, perché abbiamo raggiunto telefonicamente poco tempo fa Rim Majoub Masmoudi, che è la presidente del gruppo parlamentare di Affect Tunes, partito di sinistra tunisino, già deputata all'Assemblea Costituente, che ha votato sì alla nuova legge. A lei abbiamo chiesto innanzitutto qual è lo scopo, qual è la ratio di questa nuova legge contro il terrorismo. C'è una nuova strategia contro il terrorismo e uno dei mezzi di questa strategia è costituito proprio dalla nuova legge. Prima avevamo una legge risalente al 2003, ma che non era realmente applicata perché non vi erano le condizioni per un giudizio giusto. E i giudici preferivano non applicare quella legge. Ora ce l'abbiamo e vogliamo precisare che è stato il popolo a chiederla. È dai tempi dell'Assemblea Costituente che se ne parla. Ecco, Stefano Torelli, questa prima risposta intanto ricorda che c'era già una legge 2003, siamo sotto il regime di Ben Ali. Quando fa riferimento a quell'impossibilità da parte dei giudici di avere un processo giusto, mi sembra un tecnicismo, però forse lei può aiutarci a capire meglio a cosa si riferiva. Sì, diciamo, più che un tecnicismo è un modo per far capire che anche i giudici stessi, i tunisini stessi, e quindi anche il corpo dei giudici, insomma, si rendevano conto in questi ultimi mesi che non si poteva chiaramente andare avanti con la legge antiterrorismo del 2003. Perché? Perché la legge del terrorismo del 2003, che appunto era anche quella stata ampiamente criticata da tutte le organizzazioni internazionali che si occupano sostanzialmente di diritti umani, ebbene quella legge di fatto era una legge che volutamente usava, diciamo, il termine terrorismo per una serie di reati che poi, insomma, magari anche il terrorismo non erano, e quindi sostanzialmente una legge tramite la quale Ben Ali e il regime precedente riuscivano sostanzialmente anche a reprimere dissenso di altro tipo che non fosse terrorismo. Ecco, quindi una legge secondo cui la stessa nozione, diciamo, di terrorismo, la definizione di terrorismo, di atto terroristico, era molto molto vaga. E quindi chiaramente questo qui è stato uno dei punti centrali del dibattito politico negli ultimi anni in Tunisia, cioè la necessità di sostituire questa legge. Perché? Perché così anche i giudici potevano avere un nuovo strumento più efficace e più effettivo per poter effettivamente combattere il terrorismo senza rischiare di incappare, diciamo, in, chiamiamoli così, errori di valutazione. Ecco. Chiarissimo. Stefano Torelli, rimanga con noi, adesso c'è l'informazione finanziaria e poi di nuovo entreremo nelle pieghe di questa nuova legge contro il terrorismo. sul luogo è lontano. Seconda parte di Nessun Luogo Lontano, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ritmo e musica dettati da Roberta Fisani, che in regia, in redazione con me ci sono Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli, naturalmente voi all'ascolto e a fare domande, commenti e suggestioni a Nessun Luogo 24 e Giampazza su Twitter, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, gli SMS al 349-238-6666. In apertura il mistero sulla morte del Mullah Omar, poi la situazione a Calais che ha scatenato una serie di SMS che adesso cerco di riassumere, poi eravamo già andati in Tunisia grazie a Stefano Torelli, che è ricercatore ISPI, esperto di Tunisia, che ci sta aiutando a muoverci tra le pieghe di questa nuova legge che prevede pugno duro contro i terroristi in Tunisia, un paese che è fra l'altro fucina di jihadisti, fucina di cosiddetti foreign fighters, soprattutto in due teatri, quello siriano e quello libico, il secondo ovviamente molto molto vicino. Prima di tornare però da lei, Stefano Torelli, mi faccia leggere un paio di SMS che mi solleticano. In particolare un ascoltatore dice: lei ha detto nel passato anche in Spagna, cosa ha fatto cambiare rotta ai migranti? Una serie di fattori, ma su queste, sulle rotte in particolare, dedicheremo una puntata speciale prossimamente di Nessun Luogo è Lontano. Quella rotta ad ovest ha subito vari cambiamenti. Forse voi ricorderete nel 2008-2009 si partiva addirittura dalla Mauritania e con le piroghe dopo 3 giorni e 3 notti si arrivava a Tenerife, nelle Isole Canarie. Forse ricorderete, i più attenti, quelle foto incredibili di turisti appunto alle Isole Canarie con l'arrivo dei migranti. Poi la Spagna cosa ha fatto? Ha chiuso le frontiere, ha fatto stringenti accordi di rimpatrio con il Marocco, ma non solo, e si è aperta l'altra rotta, quella che passa dal Niger, quella che poi arriva in Libia. Non solo questi fattori ma altri, ma ve li racconterò, perché il tema delle rotte merita tanto tanto spazio e non voglio ridurre la questione a pochi slogan. Beh, c'è poi chi chiede perché non vanno in Africa del Sud, ma insomma, questa parte che potrebbe suonare come una provocazione, in realtà in pochi sanno che esiste un forte movimento migratorio interafricano, cioè fra i vari paesi africani. Ad esempio, pochi sanno che il Marocco recentemente, da terra di partenza e di transito, è diventata destinazione di arrivo. L'economia stessa africana si muove ovviamente, e muovendosi crea opportunità. Non si debba pensare che tutti gli africani vogliono arrivare in Europa, questo no, anche per rispondere a quegli allarmismi che si diceva 500.000, 1 milione pronti a invadere le coste. Insomma, la cronaca ci sta dicendo esattamente il contrario. Ma non fatemi divagare, torniamo a Stefano Torelli, alla Tunisia, che peraltro era in passato uno dei punti di partenza. Allora, Stefano Torelli, sentiamo ancora con lei Rim Majoub Masmoudi, che è di Effect Tunes, presidente del gruppo parlamentare di questo partito, a cui ho chiesto, l'ho solleticata sul fatto che alcune associazioni per la difesa dei diritti umani sostengono che questa legge, ma come già lei faceva notare, è una minaccia contro i diritti umani. Ascoltiamo. Noi non abbiamo definito il terrorismo. Abbiamo definito il crimine, l'atto terroristico, chi lo commette, ma non chi lo aiuta sul piano logistico, chi va in Siria, chi va in Libia. Insomma, abbiamo definito l'atto criminale. La levata di scudi delle associazioni di difesa dei diritti dell'uomo c'è stata soprattutto a causa della pena di morte. In questa legge è prevista la pena di morte, ma questa è una battaglia che risale a tanto tempo fa, perché nella nostra Costituzione non c'è l'abolizione della pena di morte. Ecco, Stefano Torelli, come commentare questo aspetto? Perché insomma, fondamentalmente la deputata sostiene, guardate, che tutto l'allarmismo deriva dal fatto che si parla della pena di morte. Beh, allora, a parte il fatto che già questo fatto, voglio dire, comunque è normale che susciti un po' di critiche da parte anche delle organizzazioni che si occupano, certo, di difesa dei diritti umani, soprattutto se stiamo parlando di un paese che comunque viene additato, vuole essere, e in parte anche a ragione lo è, una sorta di faro appunto degli altri paesi arabi in tema di diritti umani, di libertà civili e politiche, in tema di democratizzazione. Quindi, ripeto, già soltanto con questo fatto, comunque, poi uno può essere d'accordo o meno, chiaramente, però è comprensibile come faccia sollevare alcune critiche. Pena di morte, che ricordiamolo, in Tunisia è sotto moratoria dal 1990, sì, e che quindi, insomma, ecco, se adesso dovesse venire riapplicata in alcuni casi, chiaramente costituirebbe comunque una sorta di passo indietro, secondo alcuni parametri, se non altro. Sì. Ma poi, ecco, mi piaceva sottolineare che in realtà non è soltanto il discorso della pena di morte che è sotto accusa da parte delle organizzazioni dei diritti umani e da parte dei detrattori, insomma, in generale di questa legge. Vi sono comunque altre misure che in alcuni casi addirittura vanno ad inasprire quella che era la legge già precedente. Prendiamo l'esempio che veniva fatto prima della detenzione senza un regolare processo, addirittura all'inizio senza prova, la detenzione preventiva. Sì. Beh, prima c'era una legge che Tunisia diceva che questa potesse essere ammessa per un massimo di 6 giorni e già comunque era un qualcosa di abbastanza grave, se vogliamo. Ecco, adesso addirittura questo limite è stato esteso a 15 giorni, cioè secondo la legge attuale adesso innanzitutto per 5 giorni vi è la possibilità che una persona che venga arrestata possa essere tenuta in isolamento e non, le forze di polizia non hanno neanche l'obbligo di avvisare il procuratore di questo fermo. Poi se il procuratore accetta o comunque dà la possibilità di tenere questa persona ancora in custodia cautelare, per altri 10 giorni questa persona può essere tenuta. Quindi di fatto in totale, secondo la legge attuale, per 15 giorni una persona può essere tenuta sotto arresto senza che vi siano ancora delle prove, senza che vi siano delle evidenze e a volte senza avere neanche contatti con familiari o avvocati. Questo, certo, per esempio è un aspetto. E poi vi è l'ambiguità comunque anche in questo caso della definizione. È vero, come diceva, è un sotterfugio, mi permetto di dire quello che diceva la deputata di Afectunes, dicendo che in realtà questa legge non definisce il terrorismo ma l'atto terroristico, però voglio dire, di fatto viene fatto rientrare sotto atto terroristico una serie di azioni che insomma sono un po' al limite del terrorismo stesso. Cioè per esempio è esplicitato che qualsiasi azione che possa arrecare danno addirittura alle proprietà private o pubbliche, che possa arrecare danno ai mezzi di trasporto, e vi sono tutta un'altra serie di casi, ecco, anche questi vanno sotto, potrebbero andare sotto l'etichetta di terrorismo. Sì. Capiamo quanto è labile il confine con, diciamo, proteste, con manifestazioni, certo, magari, certo, anche non violente, ma che potrebbero creare dei danni, diciamo così, insomma. Torelli, in realtà lei mi sta dando il destro per ascoltare insieme David Thompson, che è giornalista di RFI, autore, giornalista molto ben informato sulle questioni tunisine e sul jihad, è autore anche di un libro che si chiama Le Jihadistes Français. A lui abbiamo chiesto come giudica questa nuova legge, ascoltiamolo. La nouvelle loi antiterroriste, si on regarde se guardiamo a cosa dicono le organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo, queste sono relativamente preoccupate sul dietro fronte democratico con la questione della pena di morte. Ma anche e soprattutto perché c'è un clima oggi in Tunisia, al di là di questa legge che quasi tutti ritengono necessaria, c'è un clima nel dibattito pubblico che ricorda il periodo di Ben Ali. Nel senso che si leggono, per esempio, degli articoli sui giornali che si domandano se non si debba giudicare i deputati che si sono astenuti nel votare questa legge. C'è un clima che sta nascendo nel paese di caccia alle streghe che ricorda il periodo pre-rivoluzione, pre-Ben Ali. E questo minaccia il processo di transizione democratica in Tunisia, perché oggi molti politici, ma anche rappresentanti dei media, pensano che sia giusto tornare alle stringenti misure di sicurezza sotto Ben Ali per far fronte alla minaccia terroristica. Il rischio è che la Tunisia non solo torni indietro in termini di libertà fondamentali e conquiste della rivoluzione, ma allo stesso tempo non riesca davvero a combattere la minaccia terroristica. L'émergence du djihadisme armé en Tunisie. E questo è il commento di David Thompson, giornalista di RFI, esperto di Tunisia e di jihadismo. Siamo con Stefano Torelli, ricercatore dell'ISPI, esperto anch'egli del paese nordafricano. Fra l'altro c'è qualche sms al 349-238-6666 che ricorda, ad esempio, la detenzione statunitense a Guantanamo e le leggi antiterrorismo inglesi contro l'IRA, contro i repubblicani, dove si tenono le persone per 20 giorni. Non sono sicurissimo del periodo di detenzione per ciò che riguarda l'IRA, ma sì, ricordo che era un tempo abbastanza lungo in cui anche senza accuse formali insomma rimanevi in gattabuia. Stefano Torelli, rimanga per gli ultimi minuti con noi prima della pausa. Ascoltiamo il profilo del jihadista tunisino secondo David Thompson, perché proprio il jihad in Tunisia è stato uno dei temi di cui si è occupato parecchio questo giornalista. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de particularité du djihadisme tunisien. Quello che si constata è che non vi sono particolarità o peculiarità del jihadismo tunisino. È interessante vedere che i francesi e i tunisini sono gli stessi e all'estero combattono insieme nella stessa brigata, come in Iraq, parlano la stessa lingua. Molti vengono da quartieri popolari, ma molti anche dalla classe media. Si è molto parlato in Tunisia del rapper Emino, attivista contro gli islamisti in passato, con altri amici artisti come El Kinze. Questo rapper è partito per unirsi allo Stato Islamico in Iraq, ha poi elogiato il terrorista che ha ucciso 36 persone a Sousse. Sua madre è impiegata al Ministero della Giustizia tunisina. Insomma, viene dalla classe media. È cresciuto in un quartiere abbastanza buono ed era uno che, almeno fino all'ultima volta che lo avevo incontrato, fumava, beveva alcol, si faceva spinelli e, come gli altri jihadisti tunisini, era una persona che ha compiuto una recente conversione all'Islam. Questo è il punto in comune di tanti jihadisti. Questo ritorno all'Islam viene percepito come una sorta di redenzione dopo una vita di eccessi, di errori, a volte di delinquenze. E questo lo si vede sia tra gli jihadisti tunisini, sia tra quelli francesi. E allora, Stefano Torelli, un ultimissimo slogan, una battuta, perché il traffico incombe. Di fronte a un fenomeno come questo, in cui c'è un aspetto psicologico, sociologico, religioso, teologico e tutto quello che vogliamo, è sufficiente una legge come questa, secondo lei, per fermare il fenomeno telegrafico? Beh, appunto, dicevo, per me no, ma per me lo dimostrano anche i fatti, voglio dire, in altri contesti si è visto che soltanto la risposta, diciamo così, della sicurezza, la risposta militare, lì dove i fattori che scatenano la radicalizzazione e in ultima istanza il terrorismo, hanno a che fare appunto con la dimensione anche politica, sociale ed economica, si è dimostrato essere un fallimento, insomma. Grazie. Sicuramente potrà essere una legge efficace tra virgolette, nel senso che potrà colpire anche troppo, forse anche troppo indiscriminatamente, però appare un po' una sorta di passo indietro rispetto a quanto si sta facendo invece in Tunisia in termini di progressi politici. Grazie mille, grazie Stefano Torelli, ricercatore dell'ISPI, Istituto per gli Studi della Politica Internazionale, esperto di Tunisia. Buona giornata, buon lavoro. Il traffico. Nessun luogo è lontano. Ultima pagina di Nessun Luogo Lontano di quest'oggi, ancora una decina di minuti da trascorrere insieme a noi, gentili ascoltatori. Allora, avete sentito citare da David Thompson il rapper tunisino Emino, ne ascoltiamo un brevissimo stralcio del suo ultimo album. تعلمت من منش للطفل للطفل تعلمت نقوم بعد ما نطيح وحدي نشوف المشكلة دي حل عمري ما حبيت انتبار امي واختي ما حبيت اخوتي رجال وقفوا معايا في محنتي. E David Thompson ha parecchio studiato queste figure, tra cui appunto Emino. Nel suo libro Le Jadis Francaise, racconta una storia molto molto interessante e l'ascoltiamo insieme. Un giovane francese oggi è nella polizia islamica dello Stato Islamico in Siria. Prima faceva feste con alcol e droghe con gli amici. Una sera in cui era completamente ubriaco, mi ha raccontato di aver visto per caso sul computer di un amico la copia di un Corano. Inizia a leggere la prima pagina, la seconda, la terza, insomma, non smette di leggere per 3 giorni. Tutto solo nel suo appartamento, realizza che rischia di morire se non si converte. E allora mi racconta che cerca su Google come pregare e riempie di post-it la parete su come, per esempio, fare la genuflessione. Tre mesi dopo aveva raggiunto Ansar al-Sharia in Tunisia e un anno dopo era in Siria. E un anno après il était en Syrie. E oggi è in Siria. E questo è uno dei profili che David Thompson tratteggia nel suo libro I jihadisti francesi, che vi consiglio ovviamente se leggete in francese. In questo viaggio in cui abbiamo cercato di raccontare la nascita di una nuova griglia legislativa in Tunisia per contrastare il fenomeno del terrorismo, abbiamo dovuto per forza accarezzare il fenomeno dei cosiddetti foreign fighters, dei combattenti stranieri, cioè di chi va a imbracciare le armi in teatri stranieri. Per i tunisini si parla addirittura di 5.000 combattenti, teatri fondamentalmente sono quello libico e quello siriano, però c'è un problema, c'è un grandissimo punto di domanda che è forse un grandissimo vuoto che cercheremo di colmare col prossimo ospite, che è il professor Antonino Ali dell'Università di Trento. Buongiorno professor Ali. Buongiorno. Allora, professor Ali insegna diritto internazionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento e alla Scuola di Studi Internazionali della stessa università. Prima però, professor Ali, la solletico un accenno sulla Tunisia, perché credo che sia importante. La deputata, in realtà, mi ha anche raccontato, non c'è stato il tempo di ascoltare tutta la chiacchierata, diceva: è vero, la legge è un pezzo importante, ma poi bisogna fare tanto lavoro sul campo sociale, sport, impegnare ragazzi emarginati, eccetera, perché quello può essere un serbatoio molto utile per i jihadisti. La sua opinione da giurista sull'efficacia o meno di questa legge in Tunisia? Allora, fa piacere sentire questo da parte della deputata, anche perché le pratiche più, diciamo, moderne per contrastare il fenomeno del terrorismo vedono non soltanto una risposta di tipo repressivo, ma ovviamente altri pilastri, in particolare l'identificazione e l'intervento nei confronti della radicalizzazione dell'estremismo violento. Sì. E poi ovviamente tutto il fenomeno della prevenzione e individuazione attraverso sistemi di intelligence e altro. Sì. E questo è molto importante, perché ovviamente una risposta preventiva di carattere penalistico ha un valore simbolico molto forte, serve a confortare, direi, la popolazione all'interno, ma anche gli stati all'esterno, nel caso della Tunisia, a confortare, sì, anche i turisti, esatto, e il turismo. Ma in ultima analisi, diciamo che prevedere la pena di morte per chi è disposto al martirio sembra quasi, insomma, una barzelletta, scusate. Sì, quantomeno una sana contraddizione. Professore Ali, esiste un'azione coordinata della comunità internazionale in relazione a questo fenomeno, quello dei foreign fighters? Cioè, i vari stati come trattano i combattenti stranieri che si sono arruolati tra le file dell'ISIS? Ma guardi, il problema della partecipazione di combattenti stranieri nei conflitti armati sicuramente non è un fenomeno recente. Abbiamo avuto nella storia esempi anche particolarmente intensi di foreign fighters, come nel caso del conflitto afghano e tanti altri che non cito per motivi di tempo. E ora, qui la comunità internazionale si è mossa con una serie di azioni all'interno del quadro delle Nazioni Unite e anche all'esterno. Intanto c'è da notare che quantomeno dal 2011, il Global Counter Terrorism Forum, che è un forum che abbraccia circa 30 stati, ha elaborato quelle che possiamo definire delle best practices, quindi delle prassi, le migliori prassi per arginare e fronteggiare il fenomeno del terrorismo, che, come dicevo, non è soltanto appunto la risposta di preventiva di carattere, diciamo, penalistico, ma anche altro, in particolare arginare il fenomeno dell'estremismo violento. Tutto questo si è fatto in particolare l'anno scorso con una risoluzione, la 2178 del 2014, del 24 settembre 2014, nella quale si è previsto un obbligo di criminalizzazione di determinate condotte che in buona parte degli stati della comunità internazionale non erano previsti come reati. Ad esempio? Quello che è avvenuto con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza è che sono stati previsti, è stato previsto che gli stati intervenissero per arginare il fenomeno dei cosiddetti combattenti stranieri che viaggiano per compiere, pianificare, preparare, partecipare a atti terroristici il intervenire sulla fornitura e raccolta di fondi per finanziare i viaggi dei combattenti stranieri, sì, e anche l'organizzazione stessa dei viaggi. Quindi in altri termini si è detto: dovete criminalizzare, dovete rendere norme penali nei vostri codici determinati comportamenti che fino a quel momento in molti stati non erano reali. Quindi tutto il fenomeno anche del cosiddetto autoaddestramento, che è particolarmente delicato e, sì, che è particolarmente interessante in relazione al fenomeno dei cosiddetti lone wolf, no? Sì, i lupi solitari, insomma, quelli che si attaccano a internet e trovano dovizia di informazioni su come costruire esplosivo, insomma, su come utilizzarlo, anche tattiche urbane di combattimento e quant'altro. Ecco, allora, mancava una griglia legislativa, ci ha pensato il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che cerca di armonizzare quindi le risposte dei singoli stati, però per essere concreti e per fare esempi e tornare alla cronaca, agli esempi di cronaca che anche la cronaca italiana ci ha restituito, per il solo fatto che io prendo un biglietto aereo, arrivo in Turchia e poi vado a Raqqa, roccaforte di ISIS, sono perseguibile solo per il fatto che io faccio questo viaggio? Lì il problema è che entriamo nel dettaglio tecnico di alcune norme penalistiche, ma quello che è molto importante è che qui la finalità è la finalità di terrorismo, e quindi non vado a fare il turista in Siria, ma mi vado a legare a determinati gruppi che utilizzano tecniche terroristiche. Sì. Ecco che in questi casi scatta la norma. È vero che la risoluzione del Consiglio di sicurezza prende in esame in particolare il fenomeno dell'esercito islamico, e quindi cerca di toccare l'accrescimento progressivo delle forze dell'esercito islamico. Sì. Ma se andiamo a guardare la risoluzione del Consiglio di sicurezza, è vero che fa riferimento a questo, ma le risposte da parte degli stati sono state le risposte abbastanza ampie, che finiscono per riguardare qualunque tipo di gruppo che utilizza delle finalità e dei metodi di tipo terroristico. Quindi in questo senso potremmo dire che chi si imbarca per andare in quei luoghi ricade, ad esempio, nella nostra legislazione in tutta una serie di misure di prevenzione che in passato venivano utilizzate in particolare per combattere il fenomeno mafioso, ma in questo contesto vengono utilizzate anche per bloccare chi ha l'intenzione di recarsi in quei luoghi per allearsi, per unirsi all'esercito islamico. Chiaro. E quindi intervenire e utilizzare determinati metodi che noi ben conosciamo. Ecco, per cui è la definizione di ISIS, organizzazione terroristica, e il mio eventuale viaggio fino a lì che mi fa ricadere nella fattispecie penale, perché se io invece vado in Siria e affianco il Free Syrian Army, ad esempio, non ricado nella stessa fattispecie, perché la comunità non è così scontata. Lì, secondo alcuni, ci sarebbe una chiave di lettura che vorrebbe che, visto che la nostra il nostro decreto antiterrorismo del febbraio del 2015, proprio nel preambolo viene indicato espressamente la 2178, la risoluzione del Consiglio di sicurezza, e quindi una risoluzione che è votata a combattere sostanzialmente ANF e esercito islamico, dovremmo argomentare che l'unirsi a quel particolare tipo di gruppo, ma quelle norme penali in verità tutto questo non lo contengono, e qualunque tipo di gruppo che utilizza quei metodi che sono i metodi del terrorismo finirebbe per ricadere all'interno. Ho capito. Grazie mille professor Ali per queste, mi sa che la dovrò richiamare perché il tema merita più interesse che soli 10-15 minuti. Grazie intanto, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, è il professor Ali che insegna diritto internazionale all'Università di Trento. Ho 20 secondi, quindi riesco a ringraziare Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli in redazione, in regia Roberta Frisani, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è questa sera alle ore 23 per la replica, domani ore 6:30 e in diretta domani ore 16 per una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.